La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo martedì 19 gennaio siamo in diretta qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino, già, sì, anche il cognome mi ricordo. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto e vi ricorda per intervenire il numero di telefono 800 24 00 24, il numero di cellulare per i vostri sms per darci delle opinioni, che come sapete provo sempre a leggere, sia pure magari accorpate per filoni, comunque il 349-238-6666. Vi ricordo anche l'indirizzo per proposte, critiche, opinioni, temi di trasmissione o qualcuno da invitare, è la versione di Oscar @radio24.it. Allora, il tema della puntata, per decidere se vi va di darci un'opinione che è sempre gradita, è quello che è avvenuto in questi giorni rispetto al clima politico tra Italia e Commissione Europea, Europa in generale per così dire. Lo scontro iniziale è stato con lo scambio di dichiarazioni roventi rispetto alla storia italiana, che non ha in realtà precedenti di un rapporto muscolare dal punto di vista istituzionale dei governi e anche della Banca d'Italia. Questa è la novità nella storia nei confronti delle istituzioni europee. E questo primo blocco di questioni, con uno scambio di opinioni che è continuato ancora fino a ieri, il Presidente della Commissione Europea, approfittando di una conferenza stampa, ha detto: io non mi spiego questo tono che arriva al vilipendio da parte del governo italiano nei confronti della Commissione Europea, ha aggiunto: mi esito a comprenderlo, testuali parole, forse anche perché è un po' di tempo che sono lontano dalla politica nazionale, quindi ne ha dato anche una chiave di lettura, come dire, Renzi ha problemi nella politica nazionale e quindi alza il livello della polemica contro l'Europa per recuperare consensi e voti, una cosa pesante da parte del Presidente della Commissione Europea. A quel punto il ministro Padoan ha risposto con un linguaggio che a tutti noi osservatori è sembrato misurato, volto a stemperare, perché il ministro Padoan ha reagito dicendo: ma non c'era nessuna intenzione di offendere, che è un modo come un altro anche per dire: se è bollato qualche parola, qualche tono di troppo, nessun problema, ecco. Ma poi qualche ora dopo il Presidente del Consiglio invece ha rincarato la dose, perché ha usato espressioni del tipo: basta con l'Italia al cappello in mano, non si vogliono rassegnare al fatto che noi le riforme le abbiamo già fatte, è finita l'epoca di un'Italia che si fa teleguidare da Bruxelles. Quindi toni molto duri, l'ha rilanciata la polemica, e su questa polemica poi è tornato a propria volta il Presidente della Commissione Europea Juncker, che ieri ha detto: manca un interlocutore a Roma, che è una frase di nuovo pesante, di un certo peso, perché è come dire: ma insomma, il governo italiano ha difficoltà tali che non riusciamo proprio a identificarlo come interlocutore ordinario sulle questioni. A molti è sembrato evocare un preannuncio di quello che l'Italia ha vissuto nell'estate del 2011, che poi sfociò nella resa di Berlusconi e nel governo Monti. Quindi primo blocco di questioni, tutti i dossier aperti con la Commissione Europea. Ricapitoliamoli, perché ci ha pensato Renzi, ha detto: la flessibilità l'ho fatta io nel semestre di presidenza, e Juncker gli ha risposto: no, veramente le direttive per la reinterpretazione della flessibilità per il conseguimento dell'obiettivo a medio termine di deficit e debito le ha emanate la Commissione. Renzi gli ha controrisposto: no, perché tu sei stato eletto sulla base di un accordo sulla flessibilità fatto da noi, cioè un accordo politico in cui l'Italia è stata predominante, e quindi non ci dovete rompere le scatole, visto che non ci avete dato l'ok ancora sulla legge di stabilità 2016, ma vi siete presi tempo fino alla primavera del 2016. E quindi primo blocco, la flessibilità dei conti. Il secondo blocco, si era capito prima, è quello sull'immigrazione. E l'Italia ha delle riserve sul dare 300 milioni di euro come proprio quota parte per i 3 miliardi di euro stanziati per la Turchia per fronteggiare l'immigrazione, decisione però assunta dal Consiglio europeo, non dalla Commissione europea, e vabbè. Dopodiché c'è il dossier delle banche, su cui la polemica italiana verso l'Europa è durissima, è stata durissima, e qui senza precedenti. Noi in realtà abbiamo preso dalla Banca d'Italia con un'audizione parlamentare dopo le polemiche suscitate dal decreto di risoluzione di quattro banche il 22 novembre. La Banca d'Italia ci ha informato, perché noi non lo sapevamo, che la Banca d'Italia ha combattuto una battaglia riservata e poi risoltasi in sconfitta, chiedendo che l'Italia avesse diritto a una moratoria per il bail-in, cioè per le nuove norme per la risoluzione bancaria, per cui si va di grado in grado, si colpiscono prima gli azionisti, poi le obbligazioni subordinate e così via, fino a, se la capienza non basta, ad arrivare ai depositi sopra i 100.000 euro. E la Banca d'Italia ha detto al Parlamento italiano: noi abbiamo chiesto invano che fino alla fine del 2017 il bail-in non si applicasse. Polemica durissima, a cui è seguita un'altra polemica, perché si è detto che le modalità dell'intervento nelle quattro banche risolte ce l'aveva imposte con un diktat, parola per parola, in ogni particolare, la Commissione Europea. La Commissione Europea ha detto: neanche per idea, voi le avete scelte voi le modalità. E il governo italiano ha detto: abbiamo un pezzo di carta, lo tiriamo fuori. Questo pezzo di carta non si è visto. Comunque, il terzo filone è questo. Poi ce n'è un altro che riguarda gli aiuti di Stato, ILVA, e non solo ILVA, ma innanzitutto ILVA, che è un problema grave da risolvere per il governo Renzi, che ha perso tutto il 2015 e oggi ha lanciato un bando per vedere chi è interessato a entrare nel capitale e a vedere come lo Stato può a propria volta dare una mano. Ma in passato già ci sono centinaia di milioni stanziati per l'ILVA commissariata pubblica, commissariata senza esproprio, sulla quale intanto si è aperta una pre-procedura di infrazione a livello europeo. Sulle banche, nell'occhio del ciclone dei mercati italiani in questi giorni, altra pioggia, come se proprio da uragano, perché sui giornali di oggi chiunque di voi ha visto che autorevoli quotidiani italiani hanno scritto che in realtà siamo finiti nell'occhio di una specie di complotto internazionale. Il presidente della Consob Vegas ha incredibilmente parlato di mani estere che speculano sulle banche italiane ieri, oggi molti hanno detto: la richiesta della BCE di informazioni a Banca Italiana, a cominciare dal Monte dei Paschi, sui crediti deteriorati è una specie di aggiotaggio. La verità, l'ha scritto con mia sorpresa, lo ammetto, anche il Sole 24 Ore di oggi, io inizio a grattarmi la testa. Oggi c'è una nota della BCE con tanto di parole in linea, in perfetta linea, del ministro dell'economia Padoan, che ricorda a tutti noi giornalisti innanzitutto che le richieste di informazioni della BCE a MPS, come alle alcune banche italiane, come altre banche dell'Eurozona, appartengono alla prassi ordinaria. Di quale aggiotaggio stiamo parlando? Ecco, questi sono alcuni dei temi enormi, enormi del contrasto che ha iniziato a rivelarsi sotto gli occhi di tutti tra le autorità italiane, ripeto, governo, ma anche la Banca d'Italia e la Commissione Europea. Ciascuno di voi avrà un'opinione, penserà che tutti obbediscono alla Merkel ed è giusto ribellarsi, io ne ho un'altra. Allora vi presento i miei due ospiti, a cui chiedo una loro opinione sul complesso di questa vicenda, sulle veri criteri di lettura. Pensate che sia la politica interna a dominare? Pensate che sia giusto allinearsi in realtà a una grande ventata nazionalista e antieuropea, che non è che si vede solo qua, si vede in Polonia, Ungheria, Schengen che salta per aria, ci sono un mucchio di guai. Io mi limito a dire questo come conclusione di questa troppo lunga introduzione. Cari ascoltatori, se il Monte dei Paschi di Siena, dopo tre aumenti di capitale dal 2012, quando scoppiò il problema, sono passati 4 anni, ha visto i regolatori italiani impegnati a salvare la fondazione e non a dar retta a chi fin dall'inizio diceva che quella banca andava azzerati i soci, pulita e riceduta al mercato, come è avvenuto in altri grandi paesi europei, e 4 anni dopo ci ritroviamo con l'ennesimo aumento di capitale, quello del giugno scorso, completamente bruciato, era un prezzo più che doppio rispetto ai valori del titolo oggi, con una capitalizzazione che è di poco superiore ai 2 miliardi, con un libro di montecrediti concessi dalla banca più o meno di 120 miliardi di valore, rispetto ai quali 47 miliardi sono incagliati. La mia domanda è: se dopo 4 anni a Siena siamo in queste condizioni, è colpa della Merkel secondo voi? È colpa della Commissione Europea? O è colpa dei regolatori italiani e di chi in banca negli anni precedenti a Siena ha fatto un pastrocchio gigantesco? Prima domanda. Seconda domanda. Sui 200 miliardi di sofferenze, mi fermo a questi, non arrivo ai 350 miliardi sommando sofferenze e incagli. Questi chi li ha fatti? Colpa dell'euro? O perché il credito precedentemente alla crisi, che ha fatto esplodere tante cose, era dato con un criterio molto discutibile nel sistema bancario italiano? Ecco, volendo cedere quei 200 miliardi al valore di mercato che abbiamo visto attuato nel decreto del novembre scorso per le quattro banche risolte, cioè con un abbattimento rispetto al valore di libro nominale di 87 punti, oppure volendoli abbattere al valore con cui la settimana scorsa l'ultima tranche di crediti deteriorati è stata ceduta da alcune BCC al mercato con un abbattimento del 90% rispetto al valore nominale, ecco, il buco che si crea, perché le banche, cedendole al prezzo di mercato, come è evidente, siccome hanno una copertura media, dice Banca d'Italia, non superiore al 50% dei loro crediti in sofferenza, si creerebbe un buco di circa 54 miliardi di euro nel capitale delle banche italiane. Di chi è colpa? Di qualcun altro, secondo voi? Dobbiamo trovare soluzioni in cui lo Stato fa tutto, adesso che sono state cambiate le regole, anche con il voto e il consenso dell'Italia? Io sarà che sono scemo, probabilmente, però penso che tutta questa tentativo di dare la colpa a terzi, quando forse gran parte delle sottovalutazioni dei rischi italiani stanno a casa nostra, a me non mi convince. Probabilmente sono scemo. Io, come sempre. Allora però, due ospiti molto più autorevoli di me a cui chiedere le loro opinioni. Abbiamo innanzitutto Veronica De Romanis, economista, autrice tra gli altri del libro Il caso Germania, così la Merkel salva l'Europa. Veronica De Romanis, grazie di aver accettato l'invito. Buonasera. E Stefano Feltri, che è vice direttore del Fatto. Grazie Stefano. Grazie a te dell'invito. De Romanis, come la vede lei? No, io sono d'accordo con lei, non è colpa dell'Europa, dell'euro o della cancelliera, e lo dimostra il fatto che altri paesi che condividono con noi l'euro, come la Francia o la Spagna, hanno una percentuale di crediti in sofferenza ben minore della nostra. La Francia è intorno al 4% e la Spagna intorno al 7%, quindi escluderei di dare la colpa all'Europa. Io vedo tre tipi di colpe. Uno, se possiamo chiamarle colpe, o perlomeno di interventi che non sono stati fatti nel passato. Uno che, appunto, se riprendiamo l'esempio della Spagna, la Spagna ha deciso nel 2012 di fare un intervento pubblico, all'epoca si poteva fare. È il quarto paese che ha avuto aiuti dall'Unione Europea, 100 miliardi, poi per le banche sono stati utilizzati solo 41 miliardi, è stata fatta una bad bank con questi soldi pubblici e si sono ristrutturati il settore bancario. Oggi il settore bancario sta restituendo i soldi allo Stato spagnolo. Ricordo solo per inciso che noi abbiamo ripetuto fino alla noia che il nostro sistema bancario non aveva bisogno, era il più sano e solido del mondo, non parlava inglese. Quando mai, chi riservatamente andò dai presidenti del Consiglio dell'epoca a chiederlo, invece dicendo guardate che ci conviene perché in un sistema bancocentrico esploderà il credito deteriorato e sarà un vincolo poi quando si riparte, la risposta fu: ma che è un programma vincolato all'Europa, vogliamo fare la figura di chi deve chiedere aiuto all'Europa, non ne abbiamo bisogno. Chiusa parentesi. Sì, all'epoca si diceva questo, si diceva anche, e oggi si spiega il non intervento da parte dello Stato dicendo che avevamo un debito troppo elevato e quindi non avevamo i margini per certo fare quello che ha fatto la Spagna. Io ritengo che è vero che avevamo un debito elevato e lo abbiamo ancora più elevato ora dopo 4 anni di crisi. Ma quando ai mercati si segnala che l'incremento del debito serve per risanare un sistema bancario, non si ha quell'effetto negativo sullo spread che si ha in altre situazioni. Quindi a me sembra un po' una spiegazione carente quella del non essere intervenuti, allora, perché avevamo, io penso sia più un problema politico che all'epoca, avendo un governo tecnico, chiamare la troica significare aggiungere tecnici ai tecnici. Mm-mm. E quindi errore dell'epoca. Ma oggi qual è la sua impressione di un'incandescenza così elevata? Insomma, voglio dire, Renzi, PD sono europeisti come tradizione, lei che pensa? No, penso che quello che vedono dall'Europa è un settore bancario dove, come diceva lei prima, sono stati fatti aumenti di capitali che si sono sempre dimostrati insufficienti, quindi non si capisce mai qual è l'aumento effettivamente definitivo, e c'è forse anche una poca trasparenza nella mappatura di questi crediti, perché vediamo che quelli incagliati, la metà poi diventano inesigibili, i crediti incagliati anch'essi aumentano, quindi c'è anche un'informazione carente. Poi per quanto riguarda la soluzione della bad bank, si è perso molto tempo, si sta ancora perdendo molto tempo e non si è ancora capito qual è la direzione che vuole intraprendere il governo italiano. Si è parlato all'inizio di una grande banca dove mettere tutti i 200 miliardi, ora invece mi sembra che si sta orientando più appunto per quello che è stata chiamata una bad bank leggera, dove ogni banca poi può attivare o non attivare, nel senso comprare una garanzia di Stato. Quindi, comunque singolarmente da un anno e mezzo c'è questa trattativa aperta, nessuno di noi in Italia è stato messo al corrente di mancano quali sono i termini di questa trattativa. Penso che i mercati se diffidano poi alla fine ci faranno anche un po' di fondamento, forse. C'è un problema di informazione, è chiaro che poi la polemica che ha innescato il primo ministro nei confronti di Juncker, della Commissione, cioè l'alzare i toni, è chiaro che non facilitano questo genere di negoziazioni. Allora, il parere di Veronica De Romanis l'avete sentito. Dopo un minuto di informazione sulla circolazione stradale, Stefano Feltri ci dirà la sua. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a 16:47, primi 15 secondi. Anche oggi il mercato prova a risalire, più 0,8, eccetera, eccetera. I bancari continuano a cadere. Ricordo che MPS dall'inizio dell'anno ha perso del 40%, e comunque i bancari hanno perso il 20% in media, con alcune banche sono anche più del 20% che hanno perso. I report che arrivano sul sistema bancario italiano, ripeto, parlano di grande incertezza rispetto a come si risolverà la questione dei crediti deteriorati, A, B, di grande incertezza sui criteri delle fusioni delle popolari di intanto diventate SPA, a distanza di un anno dall'intervento per decreto, di totale incertezza sui criteri che verranno seguiti per il consolidamento delle 370 banche di credito cooperativo. Guardate che queste tre cose dipendono da noi, non so se è chiaro. Molti non la pensano come me, io continuo a pensarla così. Stefano Feltri, come la pensi? Ma io vorrei ripartire dalla prima parte del tuo ragionamento, cioè quello sullo scontro con la Commissione che sembra muoversi in maniera parallela e tangente alla questione bancaria, ma non sono esattamente la stessa cosa, cioè la bad bank è parte di questo scontro ma non è l'unico argomento. La mia impressione è che da un certo punto di vista abbia ragione Juncker, ci sono problemi di politica interna. A me non ha colpito il fatto che l'offensiva contro la Merkel, che è stato il primo step di questa a dicembre, 18 dicembre era il giorno della mozione di sfiducia contro Maria Elena Boschi in Parlamento sulla questione di Banca Etruria. Risultato, il giorno dopo sui giornali c'era molto più spazio sugli approfondimenti su Nord Stream e sulle strategie dei gasdotti della Germania, che erano al centro di questa offensiva a mani nude di Renzi, rispetto alla mozione di sfiducia, che di cui possiamo discutere l'opportunità, la rilevanza, eccetera, però è un fatto che le due cose hanno coinciso. Come è un fatto che la comunicazione della Commissione Juncker sull'interpretazione della flessibilità è arrivata, se non mi ricordo male, 2 ore dopo la fine della presidenza italiana. Cioè Renzi, nel suo discorso conclusivo in cui faceva il bilancio della presidenza, non ha potuto vantare la comunicazione della Commissione sulla flessibilità di cui poi avrebbe beneficiato. A me questa cosa ha sempre colpito abbastanza, perché dimostrava come fin da quella fase lì, in cui c'era una sostanza, almeno a parole, una certa armonia tra Roma. Ricordiamolo a chi ascolta, il semestre di presidenza italiana è stata la seconda parte del 2014. Esatto. Anche in quella fase lì, dove sembrava che si andassero d'amore d'accordo, in realtà evidentemente qualcosa non aveva funzionato, non c'era stata una vera capacità di leadership italiana. Quindi ha ragione Juncker a dire che Renzi si muove per ragioni di politica interna, questo dai feedback che ho avuto anch'io a Bruxelles, dintorni, insomma un po' a livello internazionale, c'è una certa preoccupazione, perché quella che è stata all'inizio apprezzata come la forza politica di Renzi adesso è diventando un po' il suo handicap, cioè continua a sembrare uno che guarda le prossime elezioni invece che alle prossime generazioni, e visto che di elezioni ce n'è una all'anno, è uno che ha un orizzonte di un anno. Questa è la prima parte del problema. C'è però una parte che lo rende un po' più complesso, cioè le accuse di Renzi hanno non dico una fondatezza, ma almeno trovano argomento nel fatto che questa Commissione europea è una Commissione europea diversa da quelle precedenti. C'è una Commissione europea molto verticistica, dove le decisioni sono accentrate nel gabinetto di Juncker, non tanto Juncker medesimo, ma nella sua struttura, e che è una Commissione molto poco autonoma dai governi nazionali, in particolare dai governi dell'asse tedesco-olandese. Quindi Renzi colpisce la Commissione contestandone non tanto i giudizi, non tanto il merito, ma la legittimità a prendere decisioni politiche. Il problema qual è? Perché non regge la posizione di Renzi? Perché la Commissione Juncker ha preso decisioni politiche anche quando gli ha avallato la sua legge di stabilità dell'anno scorso, anche quando ha fatto finta che le previsioni di crescita del governo fossero plausibili e anche quando non gli ha stroncato l'abolizione della TASI, per la quale avrebbero potuto avere una posizione molto più dura. Cioè c'è stata una fase in cui la Commissione Juncker applaudiva e apprezzava qualunque cosa facesse il governo Renzi, dandogli argomenti per poi, come dire, trovare forza a livello di politica interna. E che cosa è successo? Allora, secondo me sono successe due cose. La prima, che Renzi non si sa muovere a livello europeo, non ha costruito nessuna alleanza. È impressionante vedere che in questi giorni non c'è un solo capo di governo vero che abbia detto Renzi però qualche ragione ce l'ha. Cioè Hollande è alle prese con problemi colossali in casa sua e non ha detto una parola. Non ha, vabbè, la Spagna la lasciamo perdere, ma neanche nei paesi, come dire, laterali o minori è successo nulla. La Spagna la lasciamo perdere, lo ricordiamo, perché insomma c'è un problema di governo dopo l'elezione. Non chiusa si sa qual è il numero di telefono, esatto, da chiamare. Ma cioè Renzi non è riuscito a costruire nessuna alleanza. L'unica alleanza che aveva costruito era quella con Angela Merkel. Non ce lo ricordiamo durante la conferenza stampa con il premier greco Alexis Tsipras, quando l'unico sostegno che Renzi gli ha dato è regalargli una cravatta dicendogli quando avrai risolto i tuoi problemi te la potrai mettere, è un avanzo del gadget dell'Expo Printer. Cioè quello, Renzi ha creato un asse con la Merkel che era venuta a fargli addirittura lo spot per il Jobs Act a Milano in un inutile vertice ASEM che non serviva assolutamente a nulla, ma che aveva serviva avere l'imprimatur di una specie di benedizione internazionale alla politica del lavoro di Renzi. Quella era stata la sua strategia. Poi che cosa è successo? Perché è così tutto naufragato? La sua politica economica oggettivamente comincia a mostrare la corda, cioè comincia questa legge di stabilità 2016, ne avete parlato molte volte anche a Radio 24, non ha un problema sul 2016, il vero problema è che lascia intendere che non c'è una strategia sul 2017, cioè sono una tale quantità di problemi rinviati di un anno che, come dire, le risposte o arrivano in frettissima oppure sono veramente problemi grossi, clausole di salvaguardia, spending review che non si è fatta, eccetera, eccetera. Promessa sui rese IRAP, il fatto che uscirà la legge di stabilità poco prima di andare a votare per il referendum istituzionale, che Renzi ha detto se io non vinco vado a casa, quindi difficile immaginare che sarà una finanziaria lacrime e sangue quella emanata poche settimane prima di questo voto referendario. Assolutamente, e poi secondo me a questo si aggiungono due cose. La prima, che Renzi nei sondaggi ha mostrato qualche difficoltà e secondo me ha capito, anche per questioni proprio di tempi, cioè appunto di approssimarsi di elezioni, referendum su di lui, eccetera, che scaricare sull'Europa, su Bruxelles, qualunque problema avesse avuto avrebbe pagato in termini di consenso, soprattutto avrebbe allontanato da lui la responsabilità. Oltre a questo, il disastro sulla vigilanza bancaria che ha portato al decreto di novembre ha, come dire, reso più fragile quella protezione che c'era intorno al governo dovuta alla Banca d'Italia. Però Stefano, io questo lo chiedo a te, ma poi lo chiederò anche a Veronica De Romanis. Una Banca d'Italia così lancia in resta contro l'Europa? Beh, non si era mai vista la storia d'Italia. Quindi, a prescindere da Renzi, dico, c'è un problema istituzionale rilevante su cui interrogarsi. Non si era mai vista. A me ha colpito Visco, e non mi ricordo quale delle sue ultime apparizioni mediatiche, fare un'intervista in cui lui diceva l'Europa ci ha imposto. Io non ho mai visto una persona, diciamo, della classe dirigente di questo paese, diciamo della parte istituzionale, dire l'Europa. No, cioè, anche perché insomma, deve dire la Commissione, lo so, però voglio dire, poi a questo punto la mia opinione è che gli elettori, se devono prendere una copia, prendano l'originale. Cioè, siccome poi queste cose le dicono da anni la Lega di Salvini e il Movimento 5 Stelle e così via, a questo punto siamo al punto che i massimi vertici istituzionali, da una parte il regolatore bancario e dall'altra il governo, le dicono allo stesso modo. Non vedo come e perché gli italiani non dovrebbero a quel punto fare scelte elettorali conseguenti. Ma lo dico acriticamente, cioè lo dico come un dato di fatto, perché io sono rimasto abbastanza colpito, anche perché poi all'accusa che la Commissione ci avrebbe dettato il decreto legge del 22 novembre sulle quattro banche risolte, con minaccia tiriamo fuori i pezzi di carta non sono usciti perché non ci sono, e io sono cresciuto in un mondo in cui la stima che ho per Banca d'Italia mi impedisce di credere che non dicano le cose come stanno, eppure a oggi direi che abbiamo scelto a casa nostra. Che pensa Veronica De Romanis di questo singolare aspetto della Banca d'Italia? No, penso che sono d'accordo con voi, penso che l'Europa non ci ha imposto niente, le nuove regole, in particolare quelle del bail-in, erano state votate da tutti, inclusi i nostri parlamentari. Il vero problema è che non se ne è parlato, c'è stata una scarsa comunicazione, forse perché poi quando si parlano di questi argomenti non sono... Ma più che altro si è ripetuto che non c'era niente da temere, perché eravamo il sistema solido, si è visto come eravamo solido. Comunque, come avrete capito, cari radioascoltatori, io ho chiamato gente che la pensa più o meno come me, siamo molto minoritari, non vi chiedo di darci retta. Beh, rappresentiamo un'opinione dissenziente rispetto a quella che c'è su tutta la grande stampa italiana e anche da questo gruppo editoriale. Io non mi nascondo dietro un dito, avranno ragione loro, però io non la penso come leggete sui giornali italiani. Forse ci sbagliamo, forse no, lo diranno i fatti. Continuate intanto su Radio 24, grazie a Veronica De Romanis e a Stefano Feltri, e appuntamento all'8:15 domani mattina con Alessandro Milan in Attenti a noi due.